Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Scontri e tensione tra immigrati e cittadini a Rosarno. Conti pubblici, deficit PIL al 5,2, disoccupazione record al top dal 2004. Maggioranza e opposizione dividi su candidature per le regionali e giustizia. Una nuova perturbazione sull'Italia, allerta per neve e allerta anche per la piena del Tevere. In apertura gli scontri tra immigrati e cittadini a Rosarno. Rosarno è un comune nella piana di Gioia Tauro con 15.000 abitanti, clandestini circa 2.000, che in alcuni periodi dell'anno vivono all'interno del paese in condizioni disumane, accampati dove capita nelle aree dismesse e lontane dal centro. Sono quasi tutti africani e arrivano qui sapendo che il lavoro da fare è quello duro del bracciante, ma è gente che scappa dalla guerra in molti casi e quindi si adatta finché può. C'era guerra civile da me e per questo sono venuto. Ieri pomeriggio succede un fatto di cronaca che fa esplodere una vera rivolta. Un'auto con a bordo un gruppo di italiani passa e spara con un fucile ad aria compressa contro un gruppo di africani che torna dai campi. Due di loro restano feriti, uno è un rifugiato politico. I compagni si radunano, si armano di mazze e pietre e marciano verso il centro della città. Lungo il percorso distruggono auto, ribaltano cassonetti. La città è assediata. Cerca di mediare il prefetto Francesco Bagnato. Solo a tarda sera torna la calma, ma questa mattina si ricomincia. Questa volta gli immigrati sono molti di più. Un agente ci parla di 1.000 persone. Saranno 800, magari un migliaio già di persone. La situazione, diciamo, è semplicemente, potrebbe essere esplodere da un momento all'altro. Vogliono parlare col prefetto, vogliono vivere come persone, avere l'acqua per lavarsi, una casa, un letto, un bagno. Ma come si fa? Ci dice il parroco Don Pino. Sono quasi tutti clandestini. Sì, è vero che c'è qualcuno che le sfrutta, però è un discorso che non è rivolto perché è nero, perché viene dall'Africa. È una situazione di mercato, probabilmente. Don Pino, mi scusi se glielo chiedo, però Rosarno ha proprio una storia, una tradizione di lotta contadina, no? Sì. Cioè, voi avete addirittura un affresco sul muro della posta centrale, sì, no? Sì, sì. E cosa c'è in quel muro, in quell'affresco? Un uomo e una donna che hanno un neonato in braccio con altri contadini stanno marciando nelle campagne. È vero, lotte contadine ne abbiamo avute qui. E io ricordo negli anni 80, quando noi abbiamo cominciato anche ad accogliere, poi ci sono stati questi episodi che hanno rotto un pochino gli equilibri. Purtroppo non si riesce a vedere una soluzione, non si riesce. Cristina Carpinelli, GR24, il sole 24 ore. E dopo i fatti di Rosarno è stata costituita una task force del Ministero dell'Interno, di quello del Welfare, della Regione Calabria. Tutto questo è stato deciso pochi secondi fa al termine di una riunione convocata d'urgenza al Viminale dal Ministro dell'Interno Roberto Maroni. Ma la situazione di Rosarno era stata ricostruita l'anno scorso da Antonello Mangano, autore del libro Gli africani salveranno Rosarno. Lo ha intervistato Valentina Furlanetto. Adesso il posto in cui dormono è un'ex fabbrica senza tetto praticamente, quindi completamente diroccata, che sta a Rosarno, un'altra che sta a Gioia Tauro, che è un'ex fabbrica dell'olio, per la raffinazione dell'olio d'oliva. Dormono proprio nei silos dell'olio, cioè nei tubi di metallo. Loro, per esempio, alcuni anni fa scrissero al sindaco di Rosarno una lettera in cui dicevano: non ne possiamo più di questi giovani ignoranti armati che ci sparano addosso senza motivo. L'anno scorso si sono ribellati, questa rivolta non è stata compresa, cioè non è stato capito che questa gente non ne può più di questo tipo di violenza gratuita, perché allo sfruttamento non si può aggiungere anche questa situazione di queste aggressioni continue e immotivate. Per cui è chiaro che la rabbia covava ed esplosa all'improvviso. Poi. L'intervista integrale andrà in onda domenica in Figli di un Dio Minore alle 14:15. E alle 13:04:40 siamo in diretta con Filippo Veltri dalla Calabria. Buon pomeriggio, Filippo. Buon pomeriggio a voi. Che cosa sta succedendo a Rosarno? Come diceva Mangano nel breve intervista che avete mandato in onda, era una storia praticamente annunciata, perché a Rosarno da anni si parla della situazione assolutamente drammatica, inumana, e non ci sono altri aggettivi per definirla, di 2.500 immigrati che vivono in autentiche condizioni disumane, in tuguri, quelle due strutture di cui ha parlato Mangano poco fa, il tutto per essere, diciamo, sfruttati. In ogni caso lavorano a condizioni anche qua economiche assolutamente diseguali nei campi dell'agricoltura da novembre a marzo, ma soprattutto le loro condizioni di vita in queste strutture in cui non ci sono docce, in cui non c'è se non l'assistenza che viene fornita loro dai volontari di Don De Masi, anche questo che abbiamo ascoltato prima, e quindi diciamo una situazione che era nell'aria, in cui c'è una situazione di tensione al loro interno fra loro e la popolazione rosarnese, che fra l'altro è una cittadina non piccola, grande, fa 15.000 abitanti, quindi rapporti che non si sono mai cementati, ed era nell'aria. Poi ieri l'episodio della sparatoria, del colpo di pistola sparato non si capisce da chi, dalle centrali di intelligence delle forze dell'ordine, si fa capire che non c'entra l'andrangheta, che potrebbe essere semplicemente l'azione di un disperato, ma è ovvio che stiamo parlando in una zona ad altissima densità mafiosa, quale Rosarno in particolare, che è un comune sciolto per mafia, lo voglio ricordare, e tutta la piana di Gioia Tauro, in cui anche il controllo del lavoro e anche il controllo soprattutto del lavoro nero è nelle mani delle cosche. Tutto questo è avvenuto in una situazione che era facilmente prevedibile che da un momento all'altro potesse scoppiare la rivolta, che ha come unico punto di precedenza in Italia solo quella di Castelvolturno in Campania di anni fa, dove però c'erano altre situazioni, e qui invece, come dire, era quasi tutto annunciato. E la politica cosa fa? La politica, devo dire la verità, la Regione Calabria è in prima fila su questa storia di Rosarno, sta cercando ha dato quello che poteva dare, ha dato un contributo di poche migliaia di euro dal suo bilancio, ha più volte sollevato il problema agli organismi nazionali, però non c'è stata una risposta, perché credo che ci sia una difficoltà di intervenire su questo terreno del welfare, cioè delle risposte alle condizioni di vita degli immigrati, se non si scioglie definitivamente il nodo degli immigrati, dei clandestini, di chi ha diritto a starci e di come arrivano in Italia e di come soprattutto poi queste persone, che magari non hanno diritto a stare in Italia, vengono sfruttate. Alcuni dicono che vengono pagati a 30 euro a giornata, ma mi sembra una cifra molto, molto alta anche questa, per il lavoro nelle campagne e in agricoltura, che è l'unico punto di sostegno economico di tutta la zona della piana di Gioia Tauro. Questo non va dimenticato, a fianco al porto, che peraltro in questi momenti è in crisi, ci sono 450 cassintegrati. Quindi voglio dire, il tutto si collega all'interno di una situazione che la politica assolutamente non controlla. Grazie a Filippo Velti in diretta dalla Calabria. Naturalmente resteremo sulla vicenda di Rosarno per tutta la giornata, sentendo voci, approfondimenti, commenti e i nostri corrispondenti. Conti pubblici e disoccupazione record, questi dati diffusi nella mattinata in diretta a Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Notizie non certo positive per il mercato del lavoro, quelle diffuse oggi dall'Istat. Il tasso di disoccupazione a novembre ha raggiunto infatti quota 8,3%, dato questo il più alto dall'aprile 2004. Sono quasi 400.000 i posti di lavoro sfumati. Si conferma dunque il trend negativo. Ad ottobre, sempre dell'anno appena terminato, il tasso aveva raggiunto l'8,2%. Il numero dei senza lavoro resta per il secondo mese consecutivo oltre quota 2 milioni. A destare la maggiore preoccupazione è il tasso di disoccupazione giovanile, superiore oltre 3 volte a quello complessivo. Altro fronte delicato, quello dei conti pubblici. Partiamo dal deficit. L'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni nei primi 9 mesi del 2009 si è attestato al 5,2% contro il 2,8% dello stesso periodo dell'anno precedente. Il rapporto deficit-PIL cresce nell'ultimo trimestre ed è al 3,3%. Diminuiscono le entrate totali, meno 2,4% rispetto al 2008. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Minetta. I consumi risalgono a novembre, italiani fiduciosi per la ripresa nei prossimi anni, lo dice un sondaggio di Confesercenti. Il peggio sarebbe alle spalle. Anche a novembre, infatti, i consumi sono saliti più 1,7% rispetto allo stesso mese del 2008 e più 0,3% rispetto a ottobre. Non bisogna però dimenticare l'impatto delle vendite di autovetture grazie agli incentivi statali. Al netto di questa componente, la tendenza al recupero va quindi ridimensionata. Però, secondo un sondaggio della Confesercenti, anche se ci sarà da aspettare almeno 6-12 mesi, il prossimo anno le condizioni economiche miglioreranno. A dir la verità, i veri ottimisti sono piuttosto pochi, perché in oltre 18 milioni spostano la ripresa oltre il 2010. Il quadro più preciso nelle parole del presidente di Confesercenti, Marco Venturi. Gli italiani non hanno più il pessimismo profondo dei mesi scorsi, però non mi pare che la prospettiva sia cambiata in termini di immediatezza. Insomma, il concetto è un po' io speriamo che me la cavo, ma resta il fatto che il paese non se la passa bene, colpa anche della classe politica. Una progressione positiva, però che parte da un profondo rosso. Teniamo conto che emerge anche un giudizio che non è proprio lusinghiero, né della maggioranza, e ancora peggio dell'operato dell'opposizione. Gli italiani si aspettano di più dalle istituzioni e dalla politica. E allora quali sono le priorità da affrontare? Al primo posto la richiesta di un sostegno per le piccole imprese, segue il fisco, diminuire la pressione fiscale, specie per i meno abbienti. Valeria De Rosa, GR24, Il Sole 24 Ore. Veniamo alla pagina politica. Innanzitutto, maggioranza e opposizione sono divisi su due fronti. Quello, il primo, forse più importante, le elezioni regionali. Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Restano da riempire ancora varie caselle nel puzzle delle regionali, ma a tener banco sono sempre Lazio e Puglia. Nel Lazio il Partito Democratico deve ancora sciogliere il nodo di Emma Bonino, candidatura mal digerita dai cattolici, anche se un attestato di stima è arrivato dall'ex leader dei Popolari Marini, una personalità autorevole, dice che ha sempre dato prova di grande serietà, ma l'ufficio politico del partito vorrebbe tenere comunque aperta per il Lazio la porta delle primarie. Sull'altro fronte, intesa raggiunta tra Renata Polverini, candidata del PDL e l'UDC, un accordo ad personam, lo ha definito il segretario Cesa, che nasce sul terreno comune dell'impegno su famiglia e valori etici. Altra questione aperta è poi la Puglia, dove invece l'UDC si schiera a fianco dei democratici per sostenere il candidato Francesco Boccia, una regione, dice Casini, che rappresenta un laboratorio nazionale per vedere quale sarà il futuro assetto politico, ma per il PD resta da risolvere il braccio di ferro con l'attuale governatore Vendola, che insiste per le primarie. Sul caso si pronuncerà l'assemblea regionale del partito la prossima settimana, e intanto l'Italia dei Valori lancia un ultimatum: il PD decida presto le candidature o noi presenteremo liste autonome. E da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi, do la linea ad Andrea Viali, perché ci parla di un altro fronte, che è quello della riforma della giustizia. Sì, giustizia, Daniele, che è al primo punto nell'agenda della maggioranza in vista della ripresa dei lavori parlamentari. Di giustizia si parlerà lunedì in un vertice del Popolo delle Libertà, vertice al quale potrebbe partecipare anche il premier Berlusconi al suo rientro dopo l'aggressione di Milano. Sul tavolo ci sono provvedimenti come il processo breve e il legittimo impedimento, che sono stati già presentati in Parlamento, ma c'è anche il lodo Alfano per via costituzionale, stavolta, che sta invece per essere presentato in Senato. Su questi provvedimenti la maggioranza potrebbe però decidere di frenare per appoggiare invece una proposta di legge bipartisan che è stata presentata sempre a Palazzo Madama da una senatrice democratica, la senatrice Chiaromonte, e da compagna del PDL, una proposta bipartisan appunto che punta a reintrodurre l'immunità parlamentare, anche se in una versione in qualche modo riveduta e corretta rispetto a quella che era stata abolita dopo Tangentopoli. Questa soluzione in qualche modo è vista di buon grado anche dal leghista Maroni, e ha l'obiettivo principale di quello di far uscire in qualche modo allo scoperto il Partito Democratico, partito che ieri con il segretario Bersani ha ribadito di essere pronto al dialogo sulle riforme, a patto però che vengano messe da parte le leggi ad personam, leggi appunto come quella sul processo breve, che sarà al Senato, martedì inizierà in aula il dibattito a Palazzo Madama, e per questo il PD ha già presentato 150 emendamenti, si annuncia quindi battaglia. A te la linea, Daniele. Ora dunque la viabilità, poi nella seconda parte torneremo con Barack Obama, con il dibattito su body scan, con la piena del Tevere, con le polemiche sugli stupri, la condanna a 16 anni di carcere per i 4 romeni accusati di aver stuprato a Guidonia una giovane di 21 anni e picchiato il fidanzato di 24, spettacolo e sport naturalmente nelle notizie di Radio 24. 13-16 minuti e 54 secondi in studio Daniele Biacchesi per raccontarvi nella seconda parte Barack Obama che si è assunto le responsabilità degli errori commessi nella sicurezza in occasione del fallito attentato di Natale, il commento di Mario Platero. Una straordinaria confessione pubblica. Barack Obama ha ammesso ieri che la prima linea di difesa per proteggere l'America dal terrorismo dopo l'attacco dell'11 settembre, quella della condivisione di informazioni, ha fallito. Sue parole. Allo stesso tempo il presidente ha cercato di voltare pagina, di guardare in avanti, di giocare d'anticipo sugli attacchi politici dei repubblicani. Ha promesso una revisione completa del funzionamento delle responsabilità e del coordinamento delle agenzie di controspionaggio e della protezione del terrorismo. Ha annunciato investimenti massicci per migliorare i controlli preventivi agli aeroporti con l'introduzione ad esempio di body scanner, investimenti costosi ma necessari, ha detto ancora il Presidente. Infine ha annunciato di aver dato istruzioni per allargare la lista dei sospetti di terrorismo nella lista no fly, di aver serrato i controlli dei visti, di aver innalzato il livello di allerta per le misure di sicurezza, questo ovviamente si tradurrà in code più lunghe agli aeroporti, e di aver allargato la lista dei paesi che richiederanno una maggiore sorveglianza. Il Presidente ha pronunciato questo suo discorso con un tono allo stesso tempo ritmato e sobrio, cercando di tenere insieme tre aspetti di questa vicenda che a volte possono sembrare riconciliabili: gli errori, le risposte agli errori con nuove misure di sicurezza e l'irrinunciabilità ai valori di fondo americani, ha detto il Presidente, di trasparenza e civiltà, un tono diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati con George W. Bush, che per principio rifiutava di chiedere scusa o di ammettere un errore per non diminuire il prestigio della Casa Bianca. Questi sono i problemi che si fermano sul tavolo della Casa Bianca. The buck stops here, ha detto Obama nel suo discorso, un atteggiamento in linea con la vecchia tradizione di Harry Truman, il cui motto era proprio The buck stops here, che in italiano suonerebbe come qui finisce lo scaricabarile. Sono state eseguite nella notte tre condanne a morte negli Stati Uniti, in particolare Texas, Ohio e Louisiana. Sono stati uccisi un uomo di 47 anni condannato per stupro, omicidio della figliastra 12enne, un uomo di 37 anni condannato per aver ucciso un commerciante durante una rapina e un uomo di 51 anni che aveva ucciso un poliziotto in una rapina. La sua morte era stata rinviata due volte in seguito ad appelli, un'ultima istanza era stata respinta questa settimana. Parlavamo prima della situazione più generale della sicurezza dopo il fallito attentato di Natale. In Europa si discute se adottare i body scanner, serve una posizione condivisa di tutti i paesi membri, aveva detto il ministro spagnolo López, presidente di turno del Consiglio dei Trasporti dell'Unione, una posizione condivisa dal Comitato per la Sicurezza Aerea che si è riunito a Bruxelles, dal commissario ai trasporti Tajani, al microfono di Sergio Nava. Ogni Stato membro oggi è libero di poterli utilizzare o meno. Io ritengo che sia più giusto avere una normativa europea in modo che i cittadini che viaggiano all'interno dell'Unione abbiano in ogni aeroporto lo stesso trattamento. C'è però un'Europa ancora abbastanza divisa, almeno a livello nazionale. Questo non la preoccupa un po'? Io credo che sia meglio dare una norma omogenea a tutta l'Unione Europea. Certamente è un argomento che divide, come ha diviso il Parlamento, e c'erano differenti opinioni, e anche legate purtroppo a differenti stati d'animo. E quando noi proponemmo di inserire i body scanner non c'erano stati attentati o rischi di attentati imminenti o perlomeno conosciuti dai cittadini, e lì quindi ci fu una mobilitazione anche da parte della stampa e del Parlamento contro l'utilizzo dei body scanner. Adesso, dopo l'attentato fortunatamente fallito sul volo Amsterdam-Detroit, c'è un grande impegno anche di molti autorevoli organi di stampa. Una nuova perturbazione sull'Italia. Dalle prime ore di oggi forti piogge temporali sono abbattuti sul centro-sud e nevicate diffuse su buona parte dell'Italia nord-orientale. Nel nord Italia nevica anche a bassa quota, piove a Roma, dove allerta per il livello raggiunto delle acque del Tevere. In diretta Chiara Di Michele, cosa sta succedendo? Allora, al momento la situazione è tranquilla, non piove, la situazione è sotto controllo, il livello del Tevere è ancora 2 metri all'incirca sotto il livello raggiunto nel dicembre 2008, ma l'allerta rimane, il fiume è costantemente monitorato da vigili del fuoco, forze dell'ordine e protezione civile, attesa la piena tra oggi pomeriggio e domani. Il fiume, secondo la protezione civile, potrebbe raggiungere il livello dello scorso anno pari a 12,5 metri. Oltre al livello dell'acqua, però, una delle preoccupazioni principali riguarda i barconi che lo scorso anno andarono alla deriva incagliandosi nei pilastri dei ponti. Per questo già da ieri sono stati rivisti gli ormeggi, ma non si può abbassare la guardia, preoccupa l'accumularsi di grandi tronchi e detriti davanti ai barconi, come si può vedere adesso affacciandosi da Ponte Sant'Angelo. Bisogna tenerli sotto controllo, perché se aumentassero eccessivamente la forza della spinta potrebbe essere tale da far sganciare il barcone dalla cima. Infatti i vigili del fuoco stanno valutando come intervenire, sono arrivati anche i sommozzatori, ma ripeto, al momento la situazione è sotto controllo e lo stato di allerta durerà fino a domenica. Da Roma è tutto, restituisco la linea allo studio. Ritengo che il nuovo anno non possa cominciare senza elementi di chiarezza sul caso di Stefano Cucchi. E quanto scrive il vice segretario del Partito Democratico Enrico Letta in una lettera aperta sull'Unità al Presidente del Consiglio Berlusconi. Al di là dell'accertamento delle cause del decesso, per il quale confidiamo nell'operato della magistratura, scrive Letta, sono convinto che tutti noi abbiamo una sola altissima responsabilità. Il commento della sorella di Stefano Cucchi, Ilaria, al microfono di Adriana Fracchia. Sostanzialmente è quello che ci aspettiamo anche noi, che sia fatta rapidamente chiarezza, che ci siano date delle risposte sulla morte di Stefano, perché ci sembra una cosa, al di là del fatto che è una cosa che riguarda noi direttamente, davvero importante e significativa. Parliamo di una persona che doveva essere processata, semmai condannata, ma non doveva certo morire in quel modo. Il timore quindi che cada il silenzio su questa vicenda è forte. Guardi, onestamente ora le devo dire che credo che non possa calare il silenzio. Io, come ho detto più volte, mi fido nella giustizia e credo che le cose vadano avanti. E oggi, insomma, da cittadina spero che le nostre richieste di chiarezza non vengano deluse. Il grande problema di tutta questa vicenda è stata la mancanza di umanità, e se solo una persona avesse agito in maniera diversa probabilmente non ci sarebbe stato questo epilogo. Purtroppo a Stefano è stato guardato senza la minima umanità. Per il futuro spero che non debba più accadere nulla del genere. Ormai certo la nostra battaglia è soltanto una battaglia volta ad una ricerca di giustizia per dare in qualche modo una dignità alla morte di mio fratello. Ovviamente non se lo restituisce nessuno, l'unica cosa che possiamo fare è questa e sperare che magari con ciò che stiamo facendo noi non debba accadere a qualcun altro. Condanna a 16 anni di carcere per i 4 romeni accusati di aver stuprato a Guidonia, in provincia di Roma, una giovane di 21 anni, picchiato il fidanzato di 24. E si erano appartati in una stradina di campagna il 22 gennaio dello scorso anno. Le condanne sono state inflitte dalla GUP del Tribunale di Tivoli, Elvira Tamburelli. Al termine di un rito abbreviato, il giudice ha accolto le richieste del pubblico ministero di Tivoli, Guerra. Ritorna in alto mare la trattativa per l'Alcoa di Porto Vesmo in Sardegna. Il confronto tra governo, azienda e sindacati si è interrotto stanotte quando la multinazionale americana ha annunciato che non era più sufficiente la garanzia sull'abbattimento del costo dell'energia e che intendeva far partire subito le procedure per la cassa integrazione, congelandole per 10 giorni in attesa delle decisioni del Consiglio di amministrazione. Gli operai hanno risposto con un blocco spontaneo dei cancelli. Paolo Piacenza ha sentito Bruno Usai, rappresentante sindacale dell'Alcoa. Noi come rientriamo in fabbrica faremo l'assemblea, già le prime iniziative sono nate dai spontanei dei lavoratori, che è il blocco delle merci in uscita, adesso faremo anche tutte le altre iniziative per permettere la tenuta di questa fabbrica, perché noi non possiamo permetterci la dismissione di questa produzione, soprattutto in un territorio che conta tantissimi disoccupati, 130.000 abitanti, 33.000 disoccupati, un nucleo industriale dove ci sono più cassi integrati che lavoratori a lavoro, insomma, 4 fabbriche su 6 sono chiuse. Una di queste 2 che rimangono in piedi è la nostra. Dai sindacati è arrivata una richiesta a Palazzo Chigi di assumere a Palazzo Chigi il tavolo per la trattativa. Beh sì, perché si sta spostando il tiro ancora più in alto, perché praticamente noi pensiamo che solo un intervento forte del governo, nel confronto del governo americano, perché non si riesce a capire. Adesso effettivamente i tecnici del Ministero hanno messo in piedi davvero un programma che permetteva di risolvere il problema energetico, le cose dell'energia, e non si capisce perché la multinazionale, pur di fronte a una prospettiva anche futura, continuano a prendere tempo. Secondo noi abbiamo capito che ci daranno la notizia negativa, perché la loro scusa è quella di andare via dal territorio italiano e portare avanti un investimento che stanno iniziando nei paesi arabi, che è un investimento dove loro hanno messo anche delle somme intorno ai 4 miliardi di dollari. Per la ricerca italiana potrebbe essere arrivato il momento della svolta. Buone notizie in vista per la ricerca. Nel giro di 3 anni l'Italia dovrebbe abbandonare i bassi fondi della classifica europea quanto a investimenti pubblici in rapporto al PIL e agganciarsi alla media dell'Unione. A prevederlo è il programma nazionale 2010-2012 della ricerca, preparato dal ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini. Il piano è ormai pronto e a partire dalla prossima settimana verrà discusso con gli altri ministri. L'obiettivo è portarlo entro fine mese prima al CIPE e poi in Consiglio dei Ministri. Ancora da decifrare però i rebus risorse che tra istruzione, sviluppo economico e fondi europei potrebbero superare i 10 miliardi di euro. Allo Stato ne risulterebbero però spendibili solo 4. Sul resto l'ultima parola spetterà al Ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Eugenio Bruno, GR24, Il Sole 24 Ore. 1969, tre giovani registi riprendono le immagini di un grande concerto che però finirà in modo tragico. Il film esce l'anno dopo, viene presentato a Cannes, poi sparisce dalla circolazione. Ora Gim Shelter esce restaurato in DVD. Il 3 febbraio 1959 era passato alla storia come The Day the Music Died, il giorno in cui un incidente aereo si portò via i 3 talenti più promettenti del rock. 10 anni dopo, ad Altamont, California, il 6 dicembre 1969, moriva un altro sogno musicale, ma non solo. E un altro ragazzo, questa volta un fan, durante un concerto. Si chiamava Meredith Hunter, aveva 18 anni e quel concerto e quel dramma sono passati alla storia anche perché vennero filmati nel documentario Gimme Shelter. Era una sorta di risposta californiana a Woodstock, grandi protagonisti Rolling Stones, ma qualcosa tra droghe ed eccessi non funzionò. Qualcuno aveva avuto la folle idea di affidare il servizio d'ordine agli Hells Angels, la gang di motociclisti. A notte fonda, dopo ore di risse, uno degli Angels accoltellò Meredith. Il ragazzo era armato e aveva puntato la pistola contro i Rolling Stones. I Rolling Stones in quel momento non si accorsero di nulla e il film, che brucia ancora per quell'atmosfera plumbea e malsana che annuncia la fine dell'utopia di Woodstock, racconta anche il momento in cui Mick Jagger esamina il filmato e si rende conto davvero di quello che è successo. No, you couldn't see anything. Where's another? It's so horrible. Il suo sguardo spezza il cuore, ma quello a parole non possiamo raccontarlo. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Alle 13:29 minuti e 38 secondi vi saluta Daniele Biacchissi. Le prossime notizie alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.